Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Il programma di oggi lo cominciamo con queste note, forse molto conosciute, ma non altrettanto note di chi siano questa armonia, e lo chiediamo subito al nostro ospite prima di presentarlo. Beh, si tratta del grandissimo Mahler, che è musica molto bella e adatta al periodo primaverile. Adatta al periodo primaverile, adatta anche magari a quello di cui si occupa, è un periodo un po' di rinnovamento? Beh, sicuramente da qualche mese abbiamo tante piccole e grandi novità che meritano di essere seguite e incoraggiate. E allora svegliamo l'identità di chi è con noi, è Marcello Claric, lo ringraziamo di essere qui questo pomeriggio, professore di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza della LUIS, avvocato cassazionista, socio dello studio legale Freshfield Blockhouse Derringer, che è uno dei maggiori studi legali italiani, collaboratore del Sole 24 Ore, esperto di diritto amministrativo e della macchina dello Stato. Ecco, cosa vuol dire la primavera nella macchina dello Stato? La primavera nella macchina dello Stato vuol dire tentare di semplificare laddove si può i procedimenti, le procedure, e anche cercare di tagliare i costi, come sta tentando con grande fatica di fare il ministro Giarda con la cosiddetta spending review. Ecco, entriamo poi magari nei particolari di queste riforme dello Stato, riforme della pubblica amministrazione, però vorrei cominciare, come un po' d'uso per questi incontri, raccontando un po' come mai Marcello Claric è arrivato ad occuparsi di pubblica amministrazione. Beh, il percorso è lungo, nasce forse dal liceo. A me piaceva molto la storia e, dovendo scegliere una facoltà, non volevo scegliere facoltà che non portassero a sbocchi professionali immediati, e mi ritrovai a fare giurisprudenza. Mi piacque subito la parte del diritto pubblico, perché studiare la Costituzione, le Costituzioni, vuol dire avvicinarsi anche alla storia, dalla Rivoluzione francese in poi alle Costituzioni moderne, e poi piano piano, per specificazioni successive, sono arrivato alla pubblica amministrazione. Che è stato anche un percorso un po' geografico. Il nome Claric deriva dal nome slavo. Nome... Sì, certo, di origine croata, la famiglia mia arrivava dall'Istria, furono profughi degli anni 50 e dopoguerra, e approdai a Trieste con i miei, anzi con un breve passaggio piemontese solo di nascita. Quindi a Trieste, poi nato in Piemonte e poi è arrivato a Roma, dove si è avvicinato al cuore dello Stato. Con una lunga tappa in Toscana, che è stata molto importante per la mia formazione universitaria. Quindi università in Toscana dove? Beh, io nasco di scuola pisana e poi ho insegnato diversi anni a Siena, due bellissime sedi con molti studenti da tutte le parti d'Italia, soprattutto dal centro-sud. Un po' di nostalgia tra Pisa e Siena? Beh, sì, per certi aspetti mi ricordano gli anni in cui più intensamente potevo dedicarmi all'università, agli studenti, sedi piccole dove c'era anche un rapporto più diretto e più continuo anche tra colleghi universitari. E poi questa scelta appunto di entrare nella professione, nell'insegnamento, nella consulenza amministrativa, e non è stata una scelta un po' fa un po' tutto in questi ambiti? Diciamo che sono catene o anelli di catene che si seguono in modo spontaneo, perché chi si occupa di diritto a un certo punto, se lo studia e scrive saggi, monografie di tipo teorico, poi anche così lo stimolo, l'interesse a vedere come funziona anche nella pratica il diritto. E in particolare per le pubbliche amministrazioni è quasi normale che si inizia a tenere qualche lezione invitato dalle amministrazioni locali, dai comuni, inizia qualche collaborazione in commissioni tecniche governative, che è un'attività molto importante di servizio che noi facciamo. E tra poi mi piano pare piano che adesso sia componente della commissione di studio per la revisione della Corte dei Conti. Ecco, questa è l'ultimissima iniziativa del presidente della Corte dei Conti, che di fronte a tante modifiche legislative recenti un po' caotiche, come sempre la nostra legislazione italiana, avvertito l'esigenza di cercare di fare il punto, di capire qual è la missione di questa istituzione, e quindi ha nominato una commissione di giuristi che dovrebbe immaginare il futuro, una riforma di questa istituzione. Ecco, in Italia si dice molto spesso che quando non si vuole risolvere un problema si istituisce una commissione. Beh, in questo caso diciamo si parte da un rapporto che verrà sicuramente fatto nei prossimi mesi e forse anche una bozza di articolato. La speranza è che soprattutto in questo momento, con questo tipo di governo che è attento anche alle questioni più tecniche, si trovi uno strumento legislativo che faccia partire la riforma, come è accaduto 2 anni fa, peraltro, per la riforma del processo amministrativo. E questa è stata una riforma che è stata attuata? Riforma attuata, e anche lì nacque da un lavoro di una commissione nominata presso il Consiglio di Stato, però devo dire era una commissione che lavorava in modo più specifico, perché c'era già una delega legislativa che consentiva di effettivamente di scrivere un testo che poi quello sostanzialmente oggi in vigore. Quanti secoli ci vorranno per riformare la pubblica amministrazione in Italia? La pubblica amministrazione è una delle macchine più complesse, più lente e che hanno una grande forza di inerzia, quindi il cambiamento richiede tempi, io ritengo, lunghi, perché bisogna anzitutto cambiare anche la mentalità e la prassi, la cultura di chi lavora dentro le pubbliche amministrazioni. Non è un fatto di norme, non è un fatto di solo di leggi, leggine, ma è un fatto anche di cultura che deve essere cambiata. Una cultura che appunto fa un po' da contraltare le procedure servono a dare un alibi a chi lavora all'interno della pubblica amministrazione, quindi c'è una complessità anche in queste riforme. Si parla molto, si è parlato di riforme già fatte, ma sono state fatte veramente queste riforme? Ma sulla carta le riforme nascono già da tanti anni. Ricordo il governo Ciampi, il ministro Cassese, che fu una fucina di tante riforme che sono poi quelle su quali tutti i ministri hanno continuato da Bassanini in poi. Il problema è sempre di calarle nella realtà. Il problema è di, anche nel pubblico impiego, ci sono gli strumenti giuridici in astratto, i premi, le sanzioni, addirittura il licenziamento, per toccare un tema molto scottante. Però di fatto la prassi prevalente, gli incentivi veri dentro molti apparati amministrativi è quello del quieto vivere, del trattare tutti allo stesso modo, distribuire i premi a pioggia, non irrogare sanzioni e continuare con il modo tradizionale in cui il patto storico anche nel nostro paese è stato sempre quello. Pubblico impiego vuol dire spesso salari non elevati, ma sicurezza del posto e non gravosi carichi di lavoro. Ecco, questo forse non è più tanto vero. Il pubblico impiego ha anche forse delle punte, ma anche degli stipendi alti, anche superiori a quelli delle aziende private. Ecco, diciamo che nel pubblico impiego ci sono anche molte aree di eccellenza, in molte amministrazioni locali, soprattutto dopo che abbiamo avuto l'elezione diretta del sindaco e quindi il sindaco rispondeva direttamente al suo elettorato, in certe realtà ci sono amministratori e anche burocrati di buon livello. Il problema è la media, come sempre. Noi italiani abbiamo grandi eccellenze in tutti i campi, il problema io credo sia di allevare un po' la media. Quanto agli stipendi, è vero che ci sono realtà, ci sono stati soprattutto a livello dirigenziale o con i contratti anche di diritto privato all'esterno, situazioni un po' anomale quanto a livelli stipendiali. Però nel complesso non si può dire che, come è venuto fuori anche recentemente sui giornali, sulla stampa, i soprintendenti, no, certo, i direttori di grandi musei ricevono in busta paga compensi veramente inaccettabili. Ecco, entreremo poi in questa giungla della pubblica amministrazione, vedremo come fare per cercare di disboscare e rendere più efficiente. Incontri. A ancora con le note del secondo movimento della prima sinfonia di Gustav Mahler, riprendiamo il nostro incontro con Marcello Claric. Lo ringraziamo di essere con noi questo pomeriggio. Marcello Claric, professore di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza della LUISS di Roma, avvocato, socio dello studio legale Freshfield, Brockhaus e Deringer, con sede a Roma, uno dei più grandi studi legali romani, collaboratore del Sole 24 Ore, grande esperto di diritto amministrativo. Abbiamo parlato nella prima parte della riforma, delle riforme possibili, di un'efficienza che è sempre forse un mito, è più un mito o una realtà raggiungibile, quella dell'efficienza della pubblica amministrazione, professor Claric? Beh, l'efficienza è anzitutto un obiettivo, e bisogna vedere quanto ci si avvicina all'optimum di efficienza, e che naturalmente dipende dalle situazioni. Ecco, mi parlava prima di una necessità di equilibrio tra procedure, norme e volontà e capacità di fare in fondo il proprio dovere all'interno di questa struttura. La burocrazia italiana non agevola forse la ricerca di un'iniziativa, di una creatività, di una capacità di essere, di muoversi secondo delle logiche dinamiche, non delle logiche solo di rispettare le procedure? Ecco, diciamo, noi veniamo da una tradizione diciamo formalistica giuridica. La cultura giuridica amministrativa, di cui faccio anch'io parte, in questi mesi è stata anche oggetto di attacchi e di critiche sulla stampa. Sicuramente la mentalità giuridica amministrativa prevalente nelle pubbliche amministrazioni porta a privilegiare il rispetto delle regole formali, le procedure. Importante che la procedura sia corretta, non importa se il risultato è positivo o negativo. Importante che abbia seguito tutte le norme e normette sulle procedure nelle gare di appalto, non importa o importa poco se pago un bene il doppio di quello che pagherebbe un privato. Ecco, come è possibile smuovere questa realtà? Già Luigi Einaudi diceva che il compito della burocrazia è quello di far compilare grandi moduli e tormentare un po' i contribuenti più che di far pagare veramente le tasse. Beh, la prima azione che è stata intrapresa, che deve essere portata avanti, è eliminare laddove possibile gli orpelli, chiamiamoli orpelli burocratici, cioè passaggi procedurali inutili, autorizzazioni che non servono, che possono essere sostituite con strumenti più leggeri di controllo. E questo piano piano si sta facendo. Grazie alle nuove tecnologie, alla possibilità di utilizzare internet, la posta elettronica. Certamente, non si capisce perché si deve usare ancora tanta carta, tante lettere, ancora non voglio dire la penna e il calamaio, ma certamente c'è molto da migliorare su questo versante. E soprattutto, come le ultime modifiche normative, non chiedere alle imprese e ai cittadini documenti e informazioni che invece sono già all'interno delle banche dati delle pubbliche amministrazioni. E questo permetterebbe anche di risparmiare, cosa di cui c'è un fondamentale bisogno in questi periodi di bilanci difficili. Sicuramente su questo versante noi sappiamo che i costi di adempimento amministrativo burocratico sulle piccole e medie aziende sono molto elevati, e quindi disboscando la giungla, diciamo, burocratica, eliminando passaggi procedurali inutili, si aiutano anche le imprese a evitare perdite non solo di costi diretti ma anche indiretti, il tempo degli impiegati e dei funzionari che seguono le procedure burocratiche. Ecco, c'è molto da fare anche sul fronte proprio delle imprese. Le imprese si lamentano spesso proprio per la difficoltà di ampliare uno stabilimento, di avere delle concessioni edilizie, di avere dei permessi, delle licenze, tutte cose legate appunto all'amministrazione. È possibile semplificare su questo fronte? Io credo che su questo versante ci sia ancora molto da fare, fermo restando che non si deve neanche cadere nel mito opposto, ad esempio il famoso slogan zona burocrazia zero. Sì. Che significa zona burocrazia zero? In certi casi ci vuole il controllo pubblico, perché magari siamo in presenza di un'attività produttiva che ha tassi di inquinamento, sì, elevati o altri problemi che coinvolgono interessi pubblici, e quindi non si può pensare burocrazia zero, eliminiamo tutto, perché vorrebbe dire eliminare anche, certo, no, il mercato, la tutela del consumatore, certo, la tutela dei cittadini. Il mercato ha bisogno di regole di trasparenza, regole di tutela, regole che garantiscono proprio al mercato di funzionare. Ecco, in questo senso è possibile che ci siano delle regole o un'amministrazione che aiutino le imprese e non siano solo dei controllori? Beh, certamente bisognerebbe avere, come hanno alcuni stati, per esempio i paesi anglosassoni, amministrazioni che sanno negoziare, che sanno concedere dove c'è bisogno una deroga, però il problema nostro è che dove c'è, come si dice in gergo, discrezionalità, c'è anche il rischio di corruzione. Da una parte e dall'altra. Però noi siamo riusciti ad avere il minimo di discrezionalità e il massimo di corruzione. E questo è un po' uno dei paradossi con i quali che è difficile da sciogliere, perché troppe regole ingessano tutto quanto e non consentono di realizzare programmi di investimento, rendono difficile la vita ai cittadini e quant'altro. Troppo poche regole portano in una cultura, ahimè, con un'etica pubblica non molto elevata, sia da parte del privato sia da parte del pubblico, il rischio è che aumentino gli elementi di corruzione e di concussione. Quindi ci vuole una responsabilità maggiore da parte dei burocrati, degli operatori della pubblica amministrazione. Ecco, in questo senso, la sua esperienza oggi di professore di diritto amministrativo alla LUISS, come vede i giovani adesso? Come si avvicinano a questo mondo? Sono giovani appunto che poi studiano per entrare nei ranghi ministeriali. Ma io dico sempre che i nostri studenti sono meglio di quello che vengono spesso dipinti anche sulla stampa o sui media, cioè vi sono persone che assorbono anche le nuove idee, così hanno un'idea forse di un'Italia un po' migliore. E quindi bisogna incoraggiarli su questa strada, soprattutto per chi insegna questa materia un po' strana, il diritto amministrativo, cioè il fatto dei cavilli burocratici, dargli il messaggio che si può fare meglio e soprattutto vedere il controllo pubblico sulle attività private in forme più positive, non solo come bastone tra le ruote, ma come strumento anche di crescita, perché un paese ordinato ha bisogno di regole, ha bisogno di controllori, ma devono essere controllori che aiutano la società, certo, e l'economia a crescere. Ecco, in questa prospettiva i giovani mirano all'impiego pubblico con il mito del posto fisso, oppure adesso riescono a vedere anche la possibilità di fare una certa carriera, avere delle responsabilità, avere delle posizioni appunto che possano esprimere la loro personalità e non solo dei semplici esecutori? Ma io credo che già da tempo i ragazzi anche che vengono all'università sono abituati all'idea di dover cambiare più volte attività e non avere subito il posto fisso a vita in un'unica impresa o in un'unica pubblica amministrazione. Quindi in questo senso, rispetto a 20 anni fa, io penso che c'è già un certo salto culturale, anche perché purtroppo, come sappiamo, le occasioni di impiego sia nel pubblico sia nel privato sono in parte diminuite, certo, e quindi sono più preparati di noi, di come eravamo preparati noi, all'idea del cambiamento professionale. E quindi esprimere in questo modo anche la loro efficienza, la loro capacità. Lei mi accennava prima a questa spending review, a questa rivisitazione un po' della spesa pubblica, alla ricerca di dove sia possibile tagliare, fare dei risparmi, essere più efficienti anche facendo dei risparmi. Quale priorità vedrebbe, dove si può intervenire cercando una maggiore qualità o minor costo? Ma intanto l'operazione deve essere fatta caso per caso, non si deve più andare avanti con i tagli lineari, perché il taglio lineare colpisce in ugual modo chi è efficiente e chi è inefficiente. Rende un po' meno efficienti tutti. E comunque toglie l'incentivo a essere più efficienti, perché la prossima occasione, se i miei risparmi non mi vengono riconosciuti, certo, e vengo ulteriormente penalizzato, ovviamente ho imparato la lezione e sarò più spendaccione negli anni futuri. Quindi l'operazione va fatta ente per ente, ministero per ministero. Ed è molto più complesso, perché è chiaro che le sacche di inefficienza si annidano nei dettagli molto spesso. Ecco, ma nella sua esperienza gli è capitato di incontrare qualche caso proprio talmente rilevante che dico, ma questi qui sono proprio degli spreconi? Beh, parlando con certi dirigenti generali di ministeri o anche di enti, qualcuno così privatamente potrebbe aver confessato che se avessi metà del personale che ho lavorerei meglio, e le persone, anziché mettersi i bastoni tra le ruote tra di loro, farebbero il loro lavoro in modo più efficace. Ecco, lei che ha appunto questa visione della realtà romana, è cambiato qualcosa con il passaggio di alcuni poteri alle regioni? Sembra che veramente la burocrazia, la realtà ministeriale romana sia rimasta più o meno invariata. Beh, diciamo che i trasferimenti di funzioni dal centro alla periferia qualcosa hanno portato effettivamente alla periferia, però hanno avuto due effetti paradossali. Uno, di non ridurre gli apparati centrali. Infatti. Secondo, di accrescere la litigiosità, perché adesso in una situazione in cui per realizzare ad esempio un'infrastruttura pubblica, un rigassificatore o qualsiasi altra struttura che interessa la collettività, bisogna mettere d'accordo Stato, Regioni, enti locali, popolazioni locali, e il risultato è che non si arriva mai o quasi mai a una decisione. È stato un federalismo dell'indecisione. Questo è uno dei grandi problemi nostri, anche se le leggi prevederebbero il cosiddetto potere sostitutivo. In teoria si può arrivare a consiglio, il Consiglio dei Ministri può superare molte di questi ostacoli, ma è chiaro che non si può amministrare con delibere di atti sostitutivi. Quello che è importante è un meccanismo di ricerca del consenso e di soluzione del conflitto in cui in buona fede Stato, Regioni, enti locali e soggetti interessati collaborano a un progetto condiviso. Ecco, e che è difficile. Ci avviamo alla conclusione, volevo proprio un giudizio finale. Secondo lei, con le nuove tecnologie, con le nuove possibilità di lavoro, con i nuovi strumenti che possono essere a disposizione della pubblica amministrazione, potremmo riuscire a fare un salto in avanti verso l'efficienza di questo paese? Io credo che bisogna anche investire molto, come si dice, in capitale umano, e cioè in formazione, e soprattutto iniettare nell'amministrazione culture diverse da quella giuridica amministrativa di cui anch'io in qualche modo faccio parte. Ecco, questo detto appunto da un avvocato e da un professore di diritto, il fatto di dover rinunciare un po' alla cultura giuridica mi sembra un'ottima conclusione, un filo di autocritica, ma anche un buon proposito per chi deve poi istruire, dare educazione a queste persone, a questi giovani che comunque avranno loro il compito di rimodernare il nostro Stato. Grazie al professor Marcello Claric di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica e a domenica prossima.